L'anno 160, Alessandro Epifane, figlio di Antioco, si imbarcò ed occupò Tolemaide, dove fu ben accolto e incominciò a regnare. Avendolo saputo, il re Demetrio radunò forze in grande quantità e uscì per combattere contro di lui. Allo stesso tempo, Demetrio inviò lettere a Gionata in termini pacifici per esaltarlo. Pensava, infatti, affrettiamoci a concludere la pace con costoro prima che egli la concluda con Alessandro contro di noi, poiché egli si ricorderà di tutti i mali che abbiamo compiuto contro di lui, i suoi fratelli e la sua nazione. Pertanto gli diede il potere di radunare truppe, di fabbricarsi armi e di considerarsi suo alleato. Inoltre comandò che gli fossero consegnati gli ostaggi che erano nell'Acra. Gionata allora venne a Gerusalemme e lesse le lettere davanti a tutto il popolo e a quelli dell'Acra, i quali furono presi da gran timore all'udire che il re gli aveva dato il potere di arruolare un esercito. Quelli dell'Acra perciò consegnarono a Gionata gli ostaggi ed egli li restituì ai loro genitori. Gionata, pertanto, stabilitosi a Gerusalemme, cominciò a ricostruire e a rinnovare la città, ordinando a quelli che eseguivano i lavori di costruire le mura e la cinta muraria del monte Sion con pietre quadrate come per una fortezza. Quelli fecero così. Allora gli stranieri che erano nelle fortezze costruite da Bacchide fuggirono e abbandonarono ciascuno il suo posto per far ritorno alla propria terra, ad eccezione di alcuni di quelli che avevano abbandonato la legge e i comandamenti, i quali rimasero a Bet-Sur e ne fecero il loro rifugio. Il re Alessandro venne a sapere delle promesse che Demetrio aveva fatto a Gionata. Gli parlarono pure delle guerre e degli atti di valore compiuti da lui e dai suoi fratelli, nonché delle pene che essi avevano sopportato. Allora disse: «Troveremo forse un altro uomo siffatto? Faremo perciò di lui un nostro amico e alleato». Scrisse pertanto una lettera e gliela inviò esprimendosi in questi termini: «Re Alessandro al fratello Gionata, salute. Abbiamo saputo di te che sei un uomo valoroso e che sei disposto ad essere nostro amico. Perciò ti costituiamo oggi sommo sacerdote della tua nazione e amico del re», e gli inviò la porpora e una corona d'oro, «affinché tu pensi alle nostre cose e conservi con noi amicizia». Gionata incominciò a rivestirsi delle sacre vesti il settimo mese dell'anno 160, nella festa delle capanne. Radunò truppe e si fabbricò armi in quantità. Avendo saputo queste cose, Demetrio se ne rattristò e disse: «Che cosa abbiamo fatto? Alessandro ci ha prevenuti nello stringere amicizia con i giudei a suo vantaggio. Scriverò loro anch'io parole di incitamento, con promesse di onori e di doni affinché mi prestino aiuto». Inviò loro una lettera con queste parole: «Il re Demetrio alla nazione dei giudei salute. Abbiamo sentito con gioia che avete osservato i patti stabiliti con noi, che siete rimasti fedeli alla nostra amicizia e che non siete passati dalla parte dei nostri nemici. Perseverate dunque ancora nel conservarci fedeltà. Noi, in contraccambio a quanto fate per noi, vi beneficheremo. Vi concederemo molte immunità e vi invieremo doni. Già da ora sciolgo ed esento tutti i giudei dai tributi, dalla tassa del sale e dalle corone. Rinunzio anche da oggi alla terza parte del seminato e alla metà dei frutti degli alberi che mi toccherebbe, lasciando di prendere tutto ciò dalla terra di Giudea e dai tre distretti che le sono stati annessi dalla Samaria e dalla Galilea, a partire dal giorno di oggi e per sempre. Gerusalemme, con il suo territorio, sia santa ed esente dalle decime e dai tributi. rinunzio ad ogni potestà sull'Acra, che è in Gerusalemme, e la cedo al sommo sacerdote affinché vi ponga gli uomini che vorrà scegliere per custodirla. Infine, rendo la libertà gratuitamente a qualunque persona giudea condotta in schiavitù dalla terra di Giudea in qualunque parte del mio regno, e tutti siano esenti dai tributi, anche da quello sul loro bestiame. Tutte le feste, i sabati, le neomenie, i giorni stabiliti, i 3 giorni prima della festa e i 3 dopo la festa siano tutti giorni di esenzione e di remissione per tutti i giudei che sono nel mio regno, e nessuno abbia autorità di intentare causa o di molestare qualcuno di loro per qualunque motivo. Saranno reclutati tra i giudei per gli eserciti del re circa 30.000 uomini, ai quali sarà pagato il soldo che è dovuto a tutte le truppe del re. Alcuni di essi saranno posti nelle maggiori fortezze del re ed altri saranno preposti agli affari di fiducia del regno. I loro superiori e comandanti siano scelti tra essi e possano vivere secondo le loro leggi, come il re ha prescritto anche nella terra di Giudea. I 3 distretti che dalla regione di Samaria sono stati annessi alla Giudea siano annessi alla Giudea in modo da essere considerati dipendenti da uno solo e non ubbidiscano ad altra autorità che a quella del sommo sacerdote. Fo dono di Tolemaide e delle sue dipendenze al Tempio di Gerusalemme per le spese necessarie del santuario. Da parte mia dono ogni anno 15.000 sicli d'argento da prendersi dalle casse del re sui proventi dei luoghi più confacenti. Tutto il soprappiù che i preposti ai negozi non hanno consegnato negli ultimi anni, da questo momento lo daranno per le opere del Tempio. Oltre a ciò, i 5.000 sicli d'argento che venivano riscossi sui proventi del santuario dal conto di ogni anno siano rimessi anch'essi perché appartengono ai sacerdoti che prestano servizio. Tutti quelli che si rifugiano nel Tempio di Gerusalemme e dentro tutte le sue dipendenze perché gravati da debiti verso il re o da qualunque altra obbligazione siano lasciati liberi con tutti i beni che possiedono nel mio regno. Anche per i lavori di ricostruzione e di restauro del santuario si provvederà alla spesa a conto del re. Similmente, per ricostruire le mura di Gerusalemme e per le fortificazioni all'intorno si provvederà alla spesa a conto del re, come pure per ricostruire le altre mura in Giudea. Quando Gionata e il popolo ebbero udito queste parole, non vi prestarono fede né le accettarono, giacché si ricordavano del grande male che egli aveva fatto in Israele e come li aveva oppressi fortemente. Si decisero invece in favore di Alessandro, perché egli si era loro rivolto per primo con parole pacifiche e divennero suoi alleati per tutti i giorni. Il re Alessandro radunò grandi forze e marciò contro Demetrio. I 2 re attaccarono battaglia, ma l'armata di Demetrio si diede alla fuga e Alessandro li inseguì prevalendo su di essi. La battaglia si fece aspra fino al tramonto del sole e anche Demetrio cadde ucciso in quel giorno. Alessandro mandò ambasciatori a Tolomeo, re d'Egitto, per dirgli: «Ecco, sono tornato nel mio regno e mi sono assiso sul trono dei miei padri. Ho preso il potere, ho sconfitto Demetrio e sono diventato padrone del nostro paese. Ho attaccato battaglia contro di lui, la sua armata e lui stesso sono stati battuti da noi e ci siamo assisi sul suo trono regale. Stringiamo amicizia tra noi. Tu dammi tua figlia in moglie, io diventerò tuo genero e darò a te e a lei regali degni di te». Il re Tolomeo rispose: «Fausto, il giorno in cui sei tornato nella terra dei tuoi padri e ti sei assiso sul loro trono regale, farò per te quanto mi hai scritto, ma vienimi incontro a Tolemaide affinché possiamo vederci l'un l'altro e ti farò mio genero, come hai detto». Tolomeo uscì dall'Egitto con Cleopatra, sua figlia, e venne a Tolemaide nell'anno 162. Il re Alessandro gli andò incontro ed egli gli diede sua figlia Cleopatra, celebrando le sue nozze come sogliono fare i re, con grande sbarzo. Il re Alessandro scrisse pure a Jonata affinché gli andasse incontro, e questi si recò a Tolemaide con grande pompa. Incontrò i due re e diede loro, al pari dei loro amici, argento e oro e altri doni, trovando grazia ai loro occhi. Contro di lui, tuttavia, convennero alcuni uomini pestiferi di Israele, uomini iniqui, che volevano intervenire contro di lui, ma il re non prestò loro attenzione. Il re, anzi, comandò che togliessero di dosso a Jonata i suoi vestiti e lo rivestissero di porpora, e così fecero. Poi il re lo fece sedere accanto a sé e disse ai suoi ufficiali: «Uscite con lui al centro della città e fate proclamare che nessuno cerchi di intervenire contro di lui per qualunque motivo e nessuno gli rechi molestia per qualsiasi ragione». Or quando gli accusatori videro che egli era onorato conforme a quanto il re aveva fatto proclamare e come era stato rivestito di porpora, se ne fuggirono tutti. Il re lo colmò d'onori, lo iscrisse tra i suoi primi amici e lo costituì stratega e governatore della provincia. Dopodiché, Jonata ritornò a Gerusalemme con serenità e gioia. Nell'anno 165, Demetrio, figlio di Demetrio, da Creta, venne nella terra dei suoi padri. Appena lo seppe, il re Alessandro fu assai preoccupato e fece ritorno in Antiochia. Demetrio, pertanto, costituì Apollonio capo della Celesiria e questi, radunato un grosso esercito, andò ad accamparsi a Iannia. Quindi mandò a dire al sommo sacerdote Jonata: «Tu sei il solo a levarti contro di noi, ed io son diventato oggetto di derisione e di scherno a causa tua. Perché ti fai forte contro di noi sui monti? Se hai fiducia nelle tue truppe, scendi verso di noi nella pianura e misuriamoci l'un l'altro, poiché con me sta la forza delle città. Interroga e apprenderai chi sono io e chi sono quelli che ci aiutano. Ti diranno: non vi è per voi stabilità di piede davanti a noi. Già due volte, infatti, i padri tuoi sono stati messi in fuga nella loro terra. Non potrai perciò resistere davanti alla cavalleria e ad un tale esercito nella pianura, dove non v'è né pietra, né rupe, né luogo per fuggire». Quando Jonata udì le parole di Apollonio, il suo animo ne restò agitato. Scelti perciò 10.000 uomini, uscì da Gerusalemme e Simone suo fratello gli andò incontro per aiutarlo. Si accampò davanti a Giaffa, ma quelli della città gli chiusero le porte, giacché in Giaffa vi era una guarnigione di Apollonio. Egli allora l'attaccò, e spaventati quelli della città gli aprirono. Così Jonata si impadronì di Giaffa. Quando lo seppe, Apollonio equipaggiò 3.000 cavalieri e un grande esercito, e si diresse verso Asdod, come se volesse andarvi. Ma subito piegò verso la pianura, poiché aveva moltissima cavalleria e aveva fiducia in essa. Jonata gli andò appresso in direzione di Asdod, e i due eserciti attaccarono battaglia. Apollonio aveva lasciato 1.000 cavalieri nascosti alle loro spalle, i quali, benché Jonata si fosse accorto che vi era un pericolo dietro alle sue spalle, circondarono il suo esercito lanciando frecce contro il popolo dalla mattina alla sera. Il popolo però resistette, come aveva ordinato Jonata, e perciò i loro cavalli si stancarono. Allora Simone fece avanzare il suo esercito e attaccò la falange, e poiché la cavalleria era stremata, furono sconfitti e fuggirono, mentre la cavalleria si disperse per la pianura. Fuggirono verso Asdod, e per salvarsi entrarono nel Bet Dagon, che è il loro tempio idolatrico. Jonata allora incendiò Asdod e le città circonvicine, prese le loro spoglie e incendiò pure il tempio di Dagon con quelli che vi si erano rifugiati. Quelli che perirono di spada insieme a quelli bruciati furono circa 8.000. Partito di lì, Jonata andò ad accamparsi davanti ad Ascalone, e quelli della città gli andarono incontro con grande onore. Poi Jonathan se ne tornò a Gerusalemme con i suoi, carichi di copioso bottino. Il re Alessandro, conosciuti questi fatti, volle glorificare ancora di più Jonathan. Gli inviò una fibbia d'oro di quelle che è uso donare ai parenti del re e gli diede in proprietà Ecron con tutti i suoi territori.